get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a voi. Quella che ascolterete tra poco sarà la nostra 227esima trasmissione. In studio stasera saremo in tre, io che sono Caterina, con me c'è Stefania che avete già sentito da questi microfoni e c'è anche Manu che ci è venuto a fare un sostegno perché abbiamo una trasmissione molto corposa questa sera, c'era tanta roba da leggere, da per mettervi al corrente di un po' di cose, per cui ci è venuta sicuramente a dare una mano e noi la gradiamo molto. Noi ci dobbiamo ancora purtroppo scusare con voi perché continuiamo ad avere problemi con il cellulare sul quale solitamente vi invitiamo a mandare i vostri commenti. Non siamo riusciti a recuperare il numero che per una serie di contrattempi è diventato inattivo, quindi abbiamo questa impossibilità momentanea di mettervi a disposizione un numero per i vostri SMS. Immagino che presto, nostro malgrado, dovremo capitolare e quindi prenderemo un nuovo cellulare. Per il momento rimangono attivi però il telefono della radio, che potete utilizzare per i trillini o quando non siamo in diretta per parlare con noi, e il numero è 06 49 17 50. E il telefono della nostra sede al quale risponderemo il giovedì sera, e il numero è 06 68 64 201. Dunque, la scaletta di questa sera prevede la recensione di un libro di fumetti e la lettura di alcune strisce tratte dal libro in questione. Ci sarà poi una vasta e nutrita agenda di appuntamenti e di iniziative che ci preme comunicarvi. Bene, a questo punto io direi di far ascoltare subito un brano musicale, tanto più che io avevo messo una musica di sottofondo che non sento in cuffia, per cui siamo state io, voi e il microfono nel silenzio più assoluto, quindi mandiamo una bella canzone che spero vi piaccia, di una grandissima e di Miriam Makeba, e si intitola Pata Pata. Bye. presentiamo due libri scritti da Alison Bechdel, artista di culto del fumetto underground americano. I libri sono Fan Home, che è la sua autobiografia a fumetti, e Dykes, mitica striscia che viene pubblicata dal 1983. Edito in Italia dalla Rizzoli nel 2007, Fan Home, una tragicommedia familiare, come recita il sottotitolo, è appunto un'autobiografia. Il testo è stato premiato nel 2006 dal Time come miglior libro. L'autrice analizza passo per passo i ricordi della sua infanzia alla luce della prematura morte del padre Bruce. È il racconto di un'infanzia difficile per il cattivo rapporto di Alison e dei suoi fratelli con il papà. L'autrice ci descrive perfetti quadretti familiari claustrofobici. Bruce gestisce prima un'agenzia di pompe funebri, da qui l'ironico nome di Fan Home, per poi diventare insegnante al liceo. È un uomo triste e chiuso in se stesso, con frequenti scatti di rabbia, seguiti da momenti di dolcezza, ed ha un rapporto freddo e distaccato con tutti i componenti della sua famiglia, compresa la moglie. È completamente assorbito dal suo hobby, restaurare la casa in cui vivono. I genitori acquistano una vecchia villa di campagna che è da ristrutturare, compito a cui Bruce si dedicherà per i successivi 18 anni. La casa viene chiamata dalla bambina Maniero, che ben raffigura i maniacali cambiamenti apportati dal genitore. Mobili d'antiquariato, pizzi e merletti, che sono un supplizio per i figli, costretti ad aiutare Bruce in questa sua ossessione. Come ce la descrive l'autrice, il restauro era la sua passione, passione in tutti i sensi, libidinosa, maniacale, martirizzante. E ancora, detestavo il suo modo di trattare i figli come fossero mobili e i mobili come fossero figli. Oppure, parlando della carta da parati con il padre, ma io odio il rosa, odio i fiori, lui, peggio per te. Nonostante il testo sia intriso di ironia, come evidente da queste poche battute, risulta comunque drammatico, soprattutto perché sappiamo quasi subito che Bruce muore tragicamente investito da un camion. Ma sarà stato un incidente o un suicidio? I fatti si sono succeduti in fretta. Alison, ormai al college, annuncia per lettera ai genitori di essere lesbica. Al telefono la madre le dice che anche suo padre è omosessuale ed ha avuto storie con uomini durante il matrimonio. La ragazza è turbata dalla notizia, ma sente ora di capire i motivi della distanza di suo padre e finalmente trova qualcosa in comune con lui. Ma gli eventi precipitano. Sua madre chiede il divorzio e due settimane dopo c'è il tragico incidente. La scrittura è molto curata, piena di rimandi letterari. I disegni dai toni grigi rendono bene l'immagine malinconica delle vicende narrate. Passiamo ora a Dykes to Watch Out For, il nome americano della striscia, che letteralmente significa lesbiche cui fare attenzione, che è il lavoro che ha reso celebre Alison. Il libro è uscito in Italia quest'anno, sempre edito dalla Rizzoli, e raccoglie gli episodi migliori. Secondo quanto l'autrice racconta, iniziò Dykes con un singolo disegno. Una conoscente, vista la tavola, le suggerì di spedire il suo lavoro al giornale Woman's News, che incominciò a pubblicare le strisce regolarmente col numero di giugno-luglio del 1983. Dopo un anno, altre riviste e giornali ne iniziarono la pubblicazione, tra cui The Washington Blade, Real Girl, Bay Times, Gay Comics, The Village Voice. Dykes esce ogni due settimane sui giornali americani. In tutto Alison ha disegnato 527 episodi, apparsi su oltre 50 testate e raccolti in 11 volumi. Durante il primo anno Dykes fu costituito da fumetti a sé stanti, senza una trama o personaggi regolari. Poi dal 1987 Alison introdusse dei personaggi fissi di cui seguiamo le vicende striscia dopo striscia. Questi personaggi sono Mo, timida, romantica e impegnata politicamente, Lois, intraprendente, rivoluzionaria, assolutamente non monogama, Ginger, insegnante e intellettuale, Clarice e Tony, che hanno una lunga relazione, si sposano e fanno un figlio. Sydney, docente universitaria cinica e provocatoria, maniaca dello shopping. E tantissime altre, insegnanti, assistenti sociali, commesse di libreria, contabili, avvocati radicali. si innamorano, si tradiscono, si confidano, fanno sesso e litigano, si impegnano in politica e vanno alle manifestazioni, fanno volontariato, fanno carriera, si sostengono e si punzecchiano, crescono i propri figli, si sposano, invecchiano. La bellezza di Dykes risiede proprio nella diversità di tutte queste figure. Ognuna ha un carattere specifico, una professione che deve conciliare con impegno e vita privata, fa scelte che condividiamo o meno. Insomma, sono vere, escono fuori dalle pagine del libro, sono le donne che conosciamo noi, le nostre amiche, le nostre compagne, le nostre amanti. Alison dà spazio a posizioni politiche diverse, fa parlare le femministe e quelle che vogliono una famiglia e il matrimonio, le borghesi e le proletarie, e non crea buone o cattive, ma solo personaggi vere. Allora, io direi di fare un piccolissimo stacchetto musicale. Allora, quella che avete appena ascoltato, emozionatissima, era la voce di Stefania, che non ha neanche detto ciao, dillo adesso magari. Ciao. È Stefania. Allora, siccome questo è un libro di fumetti chiaramente lesbici, noi mandiamo una canzone di Your Girlfriend, dal titolo Lesbi Bop, ed è una cantante, indovinate un po', lesbica. Well, I wanna tell you how to do the lesbian bop. You better listen real close, get ready to rock. Dopo questo stacco musicale, vogliamo leggervi qualche striscia sicure che sia il modo migliore per farvele apprezzare. E poi forse vi accadrà quello che è successo a me leggendo il libro. Ho pensato che ero io una di quelle donne. Serata incantevole. Uffa, sono stufa dell'astinenza, Louise, non lo faccio da 8 mesi. Astinenza? Così la fai sembrare una scelta. Ammettilo, mo, non si è presentata l'occasione. Ok, lo ammetto, ma è troppo difficile conoscere le donne. E poi ho standard così alti. Già, vero. Che aveva che non andava la ragioniera carina? Ma guarda, poco impegno politico e poi era già occupata. E la donna del corso di karate che ti attizzava? Poco intellettuale. E poi non va a letto con le compagne di karate, è una sua regola. Giusto. E Naomi della cooperativa? Scherzi? Sono troppo cotta, non riesco nemmeno a chiederle dov'è il bagno senza andare in iperventilazione. No, non può funzionare, no. Ok, e io? Bella battuta, Louise. Lo sai che non potremmo mai farci una storia. Io devo sentirmi tutta romantica per andare a letto con qualcuna. So come la pensi. Limonare con me significherebbe assecondare i tuoi istinti più bassi, giusto? Beh, sì. Grazie, Mo. Lo prendo come un complimento. Tanto meglio per me. Io non ci credo ai miei istinti più bassi. Ehi, ma dove vai? Ho un appuntamento non romantico, spinto e sexy con Naomi. Vuol provare il mio celebre patè di alghe avocado? Ciao bella. Uffa, non mi diverto mai. Mo è un'idealista disperatamente romantica, intrappolata in quel turbine frenetico e spietato che è la vita della lesbica moderna? O è solo una noia? Restate con noi. Impegno esclusivo. Inizio primavera. Che dici, giugno? Giugno sarebbe romantico, oppure aspettiamo l'ottavo anniversario? La pianti? Non abbiamo ancora deciso se farlo davvero. Beh, io ho deciso. Non so che problema hai tu. Clarice, scusami se ti sembro esitante. Un giorno hai un amante e mi menti. Il giorno dopo vuoi vestirti in satin bianco e giurare monogamia eterna di fronte a tutti i nostri amici. Puoi smetterla di tirar fuori Ginger? Non è stato niente, è stato... Cioè, il fatto è che sono stata in terapia con te per mesi, 6 mesi. Non conta nulla? Ok, scusa. Ma perché di colpo vuoi sposarti? Una cerimonia non cambia il nostro impegno, che è già tanto. È un rito, Tony. Vuol dire riconoscimento pubblico della nostra relazione. Ma ha tante connotazioni negative. Il matrimonio vuol dire trasferimento di proprietà e famiglia nucleare approvata dallo Stato. Perché scimmiottarlo? Nemmeno ci danno una deduzione fiscale. Oh, Tony, nel nostro caso è solo amore. No, per te è paura. Una cerimonia d'impegno come biglietto per la sicurezza eterna. Senti, io ti voglio sposare. Non è solo la sicurezza. Pensa ai regali. Regali? Perché non l'hai detto subito? Torta di mele. Mo, guarda, ho ritirato le foto della marcia di Washington. Qui faccio una dimostrazione di sesso sicuro con le militanti lesbiche. Ed eccomi qui dietro il palco. Questa è la testa di Martina e questa sulla mia coscia è la mano di Melissa. Louise, io ammetto, io nemmeno ho visto il palco, era così lontano. Come sei riuscita a fare tutte queste cose? Io ho passato tutto il weekend a perdermi in metro e sotto il sole a beccarmi un cancro alla pelle. No, non è vero, Mo. Hai passato ore nel terrore di beccare la tua ex e la sua nuova ragazza che improvvisavano un kiss-in. Giusto, un kiss-in è stato il nostro primo bacio, ci siamo conosciute così alla marcia del 1987. Cavolo, sembra secoli fa, le cose sono proprio cambiate. Sì, E non solo nella mia vita amorosa. Lo so che questa manifestazione è stata più grande e migliore dell'ultima, ma mi sono sentita un po' perduta. Dai, baseball, hot dog, militanti gay, non sono le cose che avevo sottoscritto. Vero. La folla che acclamava patriotticamente la guardia militare in uniforme da parata. È stato un po' inquietante. Perché ci affanniamo ad avere una fetta della torta se la torta è in marcia? Dobbiamo cambiare il sistema, non farci cooptare. E mi metto a urlare se sento ancora qualcuno che dice siamo come tutti. Ehi, ehi, guarda che bella foto, Clarice e Tony al matrimonio. Cavolo, dovevo essere la testimone, ma ho sbagliato fermata della metro. Interfaccia virtuale. Ciao ragazze, vengo al corso di computer per gli impediti della tecnologia. Devo rilassarmi un po'. Come procede? Boh, troppo gergo, ormai le novità non le afferro più come un tempo. Mi sento così vecchia. Benvenuta nel club. Oggi è cominciato il semestre e ho una nuova infornata di matricole. Io invecchio, loro hanno sempre 18 anni. Avete notato che ci sono giovani lesbiche dappertutto? Ma da dove vengono? Dal centro commerciale? Dai, eravamo noi le giovani lesbiche, le sovversive, l'avanguardia, l'ondata. Che c'è successo? Queste ragazze mi guardano come fossi un agente delle assicurazioni, ammesso che mi guardino. Tu hai una ragazza più giovane di te, Louise. Com'è? Si nota la differenza d'età? Non me lo chiedere. Non vedo Sonia da un mese. È andata in autostop al Festival delle Percussioni con un sellaio che ha conosciuto pogando a Michigan. Sai, non è l'invecchiamento a disturbarmi in sé. Non rivivrei mai i miei 20 anni e direi che mi piacciono le rughe che ho intorno agli occhi. È solo che di colpo mi sento il computer dell'anno scorso. Bene, questo silenzio era per farvi meditare sulle vignette che abbiamo appena letto. Adesso ascoltiamo un altro brano, ed è anche questa una canzone che io amo tantissimo, soprattutto la cantante, è Melissa Etheridge con il brano Your Little Secret. Sugar ain't enough for you, but you're taking out your lungs, you're burying your bones before your colors blow. You better take it home. I like the way you look. I know you like me, but I met no one, no harm. The one that lies a mirror, baby. It's swiftly fading like your charm, but you're stepping out of line. You're spilling all the wine, leaving all the vine. 'Cause I can't give you more. Keep your little secret, intanto noi vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87,9 MHz. Rammentiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per iniziare ad ascoltarci. Salutiamo tutte le donne che ci accompagnano ascoltando Radio Onda Rossa e la nostra trasmissione. In questo modo si rende possibile la prosecuzione della nostra avventura dietro questi liberi microfoni. Se ci state ascoltando via internet ci farebbe piacere sapere da dove. Inoltre potete fare il graditissimo trillino. Basta far squillare il telefono di Radio Onda Rossa componendolo 06 49 17 50, lasciar squillare una sola volta e poi riagganciare e noi capiremo che ci siete e che ci state ascoltando. Per il momento vi ricordiamo ancora una volta che non abbiamo il cellulare a disposizione, ma rimangono attivi però sia il telefono della radio che potete utilizzare appunto come dicevo poco fa per i trillini o quando non siamo in diretta per parlare con noi, sia il telefono della nostra sede dal quale risponderemo il giovedì sera. E il numero della nostra sede è 06 68 64 201. Potete anche inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica che è contatti@clrbp.it oppure ancora telefonarci in sede, come dicevo prima, allo 06 68 64 201 chiamando il giovedì sera a partire dalle ore 21 perché tutte quante lavoriamo e quella è l'ora in cui ci possiamo incontrare. Oppure potete chiamare qui alla radio, però soltanto durante il tempo della nostra trasmissione. Certo, se siamo in diretta potrebbe diventare complicato rispondervi, ma faremo il possibile, insomma. Ma non finisce qui per gli amanti della carta, potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Ok, continuiamo con la nostra trasmissione. Gli appuntamenti. Allora, eccoci arrivate all'elenco dei nostri appuntamenti. Il primo riguarda la staffetta delle donne contro la violenza sulle donne organizzata dall'UDI, che chiama tutte in piazza della Loggia sabato 21 novembre 2009 dalle ore 15 alle ore 18 a Brescia. A conclusione di un anno ricco di iniziative in tutta Italia, le donne della staffetta si ritroveranno in Piazza della Loggia a Brescia per raccontare con parole, suoni e immagini questo lungo percorso. La manifestazione troverà le sue parole nelle parole con cui migliaia di donne hanno accolto l'anfora, troverà il suo messaggio e il suo senso nei messaggi che giovani e vecchie, italiane e straniere, bambini e bambine hanno consegnato all'anfora. C'è chi ha scritto per liberarsi di un peso, chi per dire quello che aveva taciuto per anni, chi la propria rabbia, chi la propria indignazione, chi infine la voglia di prendere in mano la propria vita e progettare il futuro. Questo ci unisce nell'andare in piazza il 21 a manifestare e questo ci consente di dire tutte perché dire basta violenza e stop femminicidio può solo unire le donne. Per raggiungere questo risultato politico ci siamo date delle regole, poche e semplici, consapevoli che la chiarezza apre spazi e favorisce la partecipazione. Abbiamo voluto una staffetta di donne contro la violenza sulle donne che già nel suo titolo dice che questo evento non poteva essere preso a pretesto per strumentalizzazioni di nessun genere e di nessuna parte politica. Così sarà anche la manifestazione nazionale. La manifestazione è la conclusione di un lungo percorso che ha inteso e intende denunciare il femminicidio in Italia e nel mondo, violenza che reca per noi ovunque lo stesso segno. Vogliamo dire a tutte che la prima causa della violenza è la solitudine e che quando noi usciamo dalla solitudine siamo sempre più forti. Saremo a Brescia anche per manifestare la nostra unione con le donne che, nate altrove, vivono in Italia. Vogliamo farlo perché le donne straniere sappiano che possono trovare in noi una sponda. Vogliamo farlo per ricordare a tutte che appena l'altro ieri in Italia il codice penale non ci considerava nemmeno persona. Vogliamo farlo perché il patriarcato è come l'araba fenice, muore e rinasce dalle sue ceneri. Il rischio più grande è quello di non riconoscerlo. Staffetta di donne contro la violenza, UDI. Brescia, 21 novembre 2009. Per chi intende partecipare a questa manifestazione, inoltre, l'UDI ci informa che in occasione appunto della conclusione della staffetta di donne contro la violenza sulle donne per il 21 novembre 2009 a Brescia dalle ore 15 alle ore 18, stanno organizzando diversi pullman provenienti un po' da tutte le regioni d'Italia, in cui la staffetta e l'anfora sono state accolte. E l'UDI ci scrive: molte donne si stanno muovendo perché vorrebbero esserci, e dunque anche da Roma si è pensato di organizzare un pullman di almeno 50 persone. Il costo a persona è di circa 50 euro e prevede il doppio autista. La durata del viaggio sarà di 7 ore a tratta. La partenza è prevista per le 7 del mattino circa ed il rientro da Brescia è previsto a partire dalle ore 17.30 circa, con arrivo a Roma intorno alle 24.30. Per cui chi di voi desidera partecipare può inviare la propria adesione e prenotazione a questo indirizzo, tutto scritto minuscolo, udinazionale@gmail.com. Allora, l'altra notizia che volevamo darvi è quella dell'iniziativa organizzata da Azione Gay e Lesbica di Firenze per il 6, 7 e 8 novembre a Firenze, e dal titolo "Una ribellione necessaria, lesbiche, gay e trans, 40, 30, 20 anni di movimento". La scaletta di questa iniziativa è molto nutrita e ci sono incontri a partire dalle ore 17.30 di venerdì 6 novembre fino praticamente alla fine del 9 di novembre. Ci sarà una serie di ospiti, di gruppi che parteciperanno, tra i quali noi che saremo presenti con un nostro comunicato. Alla prossima trasmissione, non la replica di questa che andrà in onda il 10, oggi è 3, quindi fra 7 giorni è 10, ma quella successiva ancora, faremo un resoconto un pochettino più dettagliato di tutta l'iniziativa. Comunque immagino che se andate a visitare il sito che è questo qua, www.azionegayelesbica.it, troverete tutti i dettagli del caso. Noi invece vi rimandiamo alla prossima trasmissione con il resoconto. La La quarta iniziativa invece che vogliamo ricordarvi, dopo tanta serietà ci fa piacere anche essere un attimino più leggere, dare una notizia un pochettino più leggera appunto, e il C-Chip C-Chap, che è un locale storico di Milano, riapre mercoledì 4 novembre alle ore 19 e festeggia il superamento dell'ennesima dura prova che lo ha costretto a chiudere al pubblico suo malgrado da marzo. Per la salute mentale, legale ed economica del circolo, tutte le socie devono avere la tessera o farla in loco al costo di 20 euro per la tessera annuale. Pensate, una tessera di 20 euro annuale. Sempre il 4 novembre inizia la vendita dei biglietti della esclusiva lotteria d'arte, che grazie alla generosità di alcune grandi artiste permetterà a tutte le socie di partecipare all'estrazione di quotatissime opere. L'estrazione avverrà a giovedì 12 novembre dalle 21:30. I biglietti della lotteria costano 10 euro per un numero e 20 euro per tre numeri. La lotteria contribuirà ad arginare il dissanguamento causato dalla chiusura forzata e dalle spese sostenute per i lavori di adeguamento. Anche per questi motivi vi vogliamo informare che il C-Chip C-Chap ha un conto corrente postale a disposizione per qualsiasi donazione, i cui riferimenti troverete sul sito ufficiale, che è www.ccipecchap.org. Da parte del comitato un grazie sincero a tutte le splendide socie, artiste generose e preziose collaboratrici che hanno contribuito e contribuiranno al superamento di questa ennesima prova di resistenza. E in un momento storico come questo, dove si cercano di eliminare sempre di più gli spazi di donne e gli spazi di libertà, ci sembrava giusto e doveroso fare questo annuncio della riapertura del C-Chip C-Chap. Ma torniamo alla lotteria d'arte che hanno organizzato. La mail che ci è arrivata dice così: allora, le artiste che hanno reso possibile la lotteria d'arte sono diverse, e sempre sul sito, che ricordiamo nuovamente www.ccipecchap.org, potrete trovare qualche informazione più approfondita. Sono artiste notevoli ed ecco i loro nomi: Valentina Berardinone, Carla Cerati, Paola Mattioli, Maria Mulas, Antonella Ortelli, Antonella Prota Giurleo, Carla Sanguinetti, Evelina Schatz, Anna Spagna e Fausta Squatriti. E per tutte le altre informazioni sulle artiste della lotteria d'arte e sullo spazio del C-Chip C-Chap, vi rimandiamo alla consultazione del sito ufficiale, che ricordo nuovamente è www.ccipecchap.org. E come ultima notizia, ma ultima soltanto per la cronologia dell'esposizione, non certo per importanza, vi diciamo una cosa alla quale a noi sta una cosa che sta molto a cuore, perché sabato novembre, sì, è vero, è molto lontano ancora, però noi ve lo diciamo per tempo in modo che voi possiate organizzarvi. Sabato 28 novembre, presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma, noi del CLR, insieme all'area Cultura, presenteremo il libro Stop Movie di Cristina Zanetti. Perché teniamo moltissimo alla presentazione di questo libro? Perché nelle pagine di questo libro si narra un pezzo importante della storia del movimento femminista e lesbico, e poi perché noi personalmente conosciamo Cristina Zanetti, è una nostra amica, per cui non può che farci piacere. La nostra iniziativa, quindi la presentazione di Stop Movie di Cristina Zanetti, avrà inizio grosso modo verso le ore 19, perché prima c'è la manifestazione contro la violenza sulle donne. E più avanti magari vi daremo delle delucidazioni e dei particolari maggiori. Per il momento segnatevi soltanto questa data, sabato 29 novembre, presso la Casa Internazionale delle Donne, il CLR insieme all'Area Cultura presenterà Stop Movie di Cristina Zanetti. Bene, il tempo a questo punto, guardando l'orologio mi sto rendendo conto, è proprio tiranno, per cui quello a nostra disposizione volge al termine, perciò mettiamo l'ultima canzone, sulle note della quale il CLR vi dà appuntamento alla settimana prossima, quindi martedì 10 novembre, con la replica di questa trasmissione. E abbiamo scelto questo brano, vista la lettura di tutti questi appuntamenti che erano molto seducenti e accattivanti, per cui abbiamo scelto il brano di Céline Dion dal titolo Seduce Me. Allora, ciao a tutte e alla prossima settimana. And all that